Sing to the Lord a new song. Sing, sing, sing. Praise His name, praise His name, praise His name. Canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lur Gustia, canta Iaunari, canta Iaunari, canta Iaunari, Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lur Gustia. Canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, annunciate diem de die salutare eius, salutare. Canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari, Lur Gustia, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari, Cantuveria, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari, Lur Gustia, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Exultate et salite, cantate, exultate et salite, exultate et salite, et salite, salite, in cittadina, salite, voce salvi, cantate Domino, cantate Domino, qui. Canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lur Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lur Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari. Cantate Domino, cantate Domino, cantate Domino, Domino.